Veniamo adesso alla prossima relazione, che è quella di Roberto Angotti dell'ISFOL. Io anche qua, prima di tutto, voglio ringraziare lui e l'ISFOL per aver partecipato al progetto nel Comitato Scientifico e per il grande interesse che hanno dimostrato. Per loro, secondo me, è stata anche un'esperienza proficua per il semplice motivo che hanno avuto occasione anche di aprire una discussione all'interno di questo gruppo di lavoro sulle diverse esperienze che ci sono nell'ambito della formazione e dei diversi approcci che ci sono tra il mondo germanofono e quello italiano. E adesso con noi verrà a parlare, diciamo, un po' in più. Questa è la seconda pagina. Allora, nel suo intervento, il dottor Angotti pone l'Alto Adige nel quadro delle indagini europee sulla formazione continua, evidenziando le caratteristiche del ritardo dell'Italia e di altri paesi dell'area mediterranea rispetto ai cluster formativi più progrediti in Europa. È interessante vedere un po' il confronto dei dati con l'Alto Adige, che è un po' posto in una situazione di cerniera tra questi due paesi, questi due mondi culturali, e vediamo che magari in parte si rilascia di più ai paesi di lingua tedesca, potendo però contare su un altro numero di iniziative di formazione e anche avendo, diciamo, molti fondi a disposizione. È interessante anche che lui ci offre alcuni indicatori su come misurare la partecipazione alla formazione. Va detto comunque che anche qua, trattandosi di indagini fatte a livello europeo o a livello italiano, si fa riferimento soprattutto ad imprese con più di 10 dipendenti. Prego. Buongiorno, io vi ringrazio per l'invito, ringrazio la FIPL per averci dato questa possibilità di intervenire su un'indagine, una ricerca di tipo qualitativo realizzata a livello locale. E mentre noi solitamente analizziamo il quadro, monitoriamo il quadro, l'evoluzione della diffusione della formazione continua a livello nazionale, per macroarea, e facciamo i confronti a livello europeo, e raramente abbiamo la possibilità poi di fare dei carotaggi, cioè di intervenire a livello locale e di intervenire anche a livello qualitativo per mettere le mani sulla materia viva, diciamo. Insomma. È stata un'esperienza molto interessante, anche la collaborazione con il BIB, che anche se la voce che ci arrivava sembrava quella di un cosmonauta, almeno a me ha fatto questa impressione, dallo spazio. Con loro abbiamo un fitto scambio di mail. I contenuti della presentazione sono quelli che ha illustrato il dottor Gudauner. Vi mostrerò innanzitutto i principali indicatori armonizzati relativi alle imprese che derivano dall'indagine CVTS. L'indagine CVTS è l'indagine Continuing Vocational Training Survey, coordinata da Eurostat, realizzata dagli istituti statistici nazionali in 27 paesi europei più la Norvegia, quindi si tratta di un'indagine che fornisce risultati e indicatori statistici armonizzati, quindi confrontabili, per almeno 28 paesi europei. Poi vi mostrerò dei confronti temporali, perché questa è un'indagine ricorrente, sebbene l'intervallo temporale sia di 5 anni, che è un lasso abbastanza consistente. La CVTS3 è appunto la terza rilevazione che si fa per questa indagine. La prima venne fatta aveva come anno di riferimento il 93, la seconda il 99, la terza il 2005, la prossima verrà fatta nel 2010. Vi informo che noi abbiamo una collaborazione strettissima con l'Istat, e la CVTS3 in Italia l'abbiamo realizzata insieme all'Istat. Abbiamo partecipato anche ai lavori di Eurostat e stiamo per realizzare una rilevazione intermedia fra la terza e la quarta, che ci darà la possibilità di effettuare dei confronti con un lasso temporale più ravvicinato. Quindi vi mostrerò le caratteristiche principali che assume la formazione nelle imprese e poi invece vi mostrerò un altro versante delle indagini, quello delle indagini sugli individui, no? Attraverso i risultati di un'altra indagine Eurostat che è la Adult Education Survey e la corrispondente nazionale che è la Indaco di ISFO, l'Indaco Lavoratori. E poi interverrò brevemente su, mostrando alcuni risultati, in particolare relativi all'Alto Adige, su alcuni aspetti che emergono dalla ricerca, illustrati da Werner, rispetto ad alcuni dati quantitativi che emergono dalle interviste di CVTS in relazione alle motivazioni, agli ostacoli e agli effetti della formazione continua. Allora, il primo argomento, gli indicatori armonizzati. Questa è la situazione che emerge a livello europeo, sono le differenze fra i vari paesi, e l'indicatore più importante, quello dell'incidenza delle imprese formatrici, ovvero sia la percentuale di imprese che che hanno offerto un qualche tipo di formazione. Quindi formazione, ogni tipo di formazione vuol dire sia formazione strutturata attraverso corsi, sia altre o altre forme di formazione in percentuale su tutte le imprese, quindi è un'incidenza percentuale. Qui purtroppo l'Italia si vede chiaramente che è agli ultimi posti in Europa, poi lo vedremo anche meglio. I paesi che guidano la graduatoria europea sono i paesi del nord Europa, in particolare i paesi scandinavi, la Gran Bretagna, poi c'è il blocco dei paesi del centro Europa, Francia, Germania, e infine un altro blocco è quello dell'Europa del sud, l'Europa mediterranea, al quale diciamo appartiene l'Italia, ma per certi versi l'Italia è più simile purtroppo a, diciamo, come emerge dai nostri dati, da un'analisi che abbiamo fatto, ai paesi purtroppo diciamo dell'area balcanica, paesi neocomunitari. Perché? Vedremo quali sono i motivi. Allora, il primo elemento che emerge sono i gap rispetto all'Europa, Tutte le indagini ci dicono, tutti i dati ci dicono che la partecipazione al lifelong learning, che è importantissima, che è un elemento, un benchmark dell'agenda di Lisbona, in Italia purtroppo è insufficiente. Però dalle indagini sui lavoratori sugli individui vediamo che invece c'è una forte richiesta di partecipazione. Anche l'indagine della FPL sui lavoratori lo mette in evidenza, anche la nostra indagine da collaboratori, quota di domanda che non riesce ad essere soddisfatta dalle imprese e quindi i lavoratori devono soddisfarla attraverso risorse proprie sostanzialmente. Le statistiche quindi mostrano degli ampi gap rispetto ai benchmark europei e questo avviene soprattutto in alcuni settori tradizionali, fra cui il turismo, il commercio al dettaglio, in relazione soprattutto alle piccole imprese, quindi una struttura dimensionale ridotta e l'altro elemento importantissimo, una bassa intensità di innovazione tecnologica. Le imprese che formano meno sono le piccole imprese dei settori tradizionali, ma anche diciamo quelle che innovano poco. Questo è imputabile ad una situazione che diciamo molti autori definiscono come una situazione di sottoinvestimento strutturale in istruzione e in formazione a livello nazionale, sia da parte del pubblico che da parte del privato. Ora, naturalmente, in questi ultimi anni sono aumentati moltissimo i finanziamenti per la formazione, non c'è solo il Fondo Sociale, c'è la famosa la legge base della formazione continua, la 236, la 53, e poi soprattutto ci sono i fondi interprofessionali per la formazione continua che stanno dando un grande aiuto, però è ancora insufficiente, cioè noi partiamo da una situazione che è di ritardo rispetto ad altri paesi, soprattutto se pensiamo alla Francia che è partita nei primi anni 70, agli altri paesi e così via. Quindi, soprattutto in relazione al fatto che il settore privato di per sé non riesce a garantire un livello ottimale di formazione, sarebbero necessari investimenti maggiori da parte del settore pubblico, che non si vedono. Le indagini dell'OCSE vanno citate perché mettono particolarmente in evidenza alcuni gap, non solo rispetto ai paesi europei, ma proprio a livello mondiale. Abbiamo l'indagine HAL, ad esempio, che mostra il gap per livello di competenze degli adulti spendibili sul mercato del lavoro. Qui siamo molto in ritardo rispetto alle capacità matematiche, la cosiddetta numeracy. Poi pensate ai risultati dell'indagine PISA, che hanno fatto discutere molto nei mesi scorsi, e vedremo i risultati della nuova indagine PIAC, che sarebbe la PISA degli adulti, alla quale noi pure stiamo partecipando, i risultati che vedremo fra 2 anni. Quindi c'è una carenza di competenze di base, che è un fattore che chiaramente produce degli effetti assolutamente negativi per le imprese, mentre invece potrebbe forti investimenti in capitale umano potrebbero produrre esternalità positive e guadagni anche per le imprese. Quindi però, come dicevamo prima, c'è un basso investimento da parte dello Stato, anche nell'istruzione, come sappiamo, la spesa è molto bassa, l'Italia è il 22° posto nel mondo, insomma, per spesa, insomma, nell'istruzione, e questo, diciamo, questi fattori sono classificati sotto 2 punti di vista dagli autori. Abbiamo dei fattori diciamo esterni di tipo istituzionale, che secondo i quali uno dei motivi che ostacola maggiormente l'impegno delle imprese a investire di più in formazione sarebbe dovuto alla selva di leggi, la scarsa efficienza pubblica amministrazione, la pressione fiscale, la difficoltà di accesso al credito e così via. E poi altri autori che invece mettono maggiormente in evidenza l'importanza dei fattori interni strutturali all'azienda stessa, come la frammentazione delle unità produttive, anche i limiti nella cultura imprenditoriale. Allora vediamo i numeri, dove abbiamo un confronto anche con l'Alto Adige. Qui abbiamo un campione tutto sommato rappresentativo, abbastanza rappresentativo delle imprese altoatesine, perché si trattava di 550 imprese. Comunque l'indagine per l'Italia, la CVTS, è stata realizzata per avere una rappresentatività di tipo anche regionale. L'incidenza mostra come se a livello europeo la media delle imprese formatrici è pari al 60%, quindi più della metà delle imprese fanno formazione, in Italia la media generale è la metà, il 32%. Questo è il dato, diciamo, più importante dell'indagine. Vediamo le differenze. L'Alto Adige il 49%, quindi sostanzialmente, sebbene non in linea con l'Unione Europea, però chiaramente molto molto più avanti rispetto alla media nazionale, quindi è un dato che dovrebbe, diciamo, dare soddisfazione, diciamo, insomma, a livello perché mostra comunque l'esistenza di una cultura, diciamo, diversa rispetto a quella media diffusa in Italia. Il confronto con la Germania comunque è ancora tutto sommato basso, abbiamo 20 punti di differenza fra l'Alto Adige e la Germania. Questo è un confronto che mette in evidenza la differenza su questo indicatore fra la media europea, l'Italia, il Nord-Est e l'Alto Adige. Qui andrei veloce perché poi comunque le slide le potete vedere con calma. Il secondo indicatore più importante è quello della partecipazione. La partecipazione alla formazione continua, CVT sta per Continuing Vocational Training, è il rapporto fra il numero di addetti che partecipano ai corsi e il numero totale di addetti di tutte le imprese. Quindi non è la percentuale di addetti che sono stati formati relativamente all'impresa, quello è l'indicatore dell'accesso. L'indicatore della partecipazione è quanti sono gli addetti che partecipano ai corsi messi in relazione su tutte le imprese. Qui abbiamo dei dati diciamo diversi, in Europa è il 33%, in Italia è abbastanza vicino, il 29%, l'Alto Adige anche tutto sommato, ecco. Quindi Il dato che invece è da mettere in evidenza per l'Alto Adige è che sono presenti divari di genere che invece non esistono quasi ormai più a livello nazionale, e anche divari per età. Infatti qui si può vedere che appunto nella differenza nei livelli di partecipazione fra maschi e femmine, in Italia appunto questa differenza sia abbastanza livellata, invece in Alto Adige sono quasi, direi 9 punti di differenza fra la partecipazione maschile e quella femminile. Questo è un punto di cui bisogna tener conto. Questa è la distribuzione, quindi una cartografia relativa all'indicatore che abbiamo appena visto, che ci mostra la differenza fra i vari paesi, e qui abbiamo ancora una volta i paesi scandinavi, un dato molto più basso per il Regno Unito. Il Regno Unito, pensate, è in cima alla graduatoria dei paesi dell'incidenza, dell'indicatore dell'incidenza, perché vuol dire che praticamente quasi tutte le imprese, oltre il 90% delle imprese, fanno formazione. E quindi naturalmente se tutte le imprese formazione non è altrettanto importante che poi sia anche molto alto questo indicatore, no? Insomma, è importante invece, più importante è l'indicatore dell'accesso, ossia quanti lavoratori mandano informazione i datori di lavoro, le imprese. Quindi il rapporto fra il numero di addetti partecipanti ai corsi e il numero totale di addetti nelle imprese che offrono corsi, quindi solo all'interno delle imprese formatrici. Qui l'Italia recupera molto, devo dire, ha una percentuale molto alta. Questo perché sono poche le imprese che fanno formazione, un terzo, abbiamo visto, il 32%, quindi, ma quelle imprese che fanno formazione in Italia, noi abbiamo verificato che sono imprese che lo fanno con continuità e sono imprese che sostanzialmente ormai credono nella formazione e quindi danno anche la possibilità di fruire a delle opportunità formative ad una base abbastanza ampia di popolazione, diciamo, aziendale, quindi fanno partecipare molti, molti addetti. In Alto Adige questo dato è un po' più basso, ma l'indicatore dell'incidenza abbiamo visto è più alto. Questo è sempre un confronto. Anche qui si vede che c'è un divario molto ampio, 10 punti percentuali, anche nel caso dell'accesso, in Alto Adige, fra donne e uomini. Il terzo indicatore quantitativo importante, vedete, sono tutti indicatori questi strutturali, no? Mentre invece la ricerca dell'AFIPL è una ricerca che è andata, diciamo, più sui contenuti qualitativi, questo mostra, diciamo, la forma, la struttura che assume il fenomeno. Per quanto riguarda l'intensità è la durata dei corsi di formazione, viene misurata attraverso l'indicatore delle ore di corso per partecipante. È un indicatore che noi chiamiamo speranza di formazione, che sono le ore di corso per addetto. E qui la situazione mostra per l'Italia bisogna dire che c'è stata una riduzione rispetto a 5 anni prima. In Italia 5 anni prima si facevano 32 ore per partecipante, e nel 2005 se ne fanno 26, quindi c'è stata una riduzione consistente della durata della formazione per partecipante. Un dato importante, perché se pensiamo che 32 ore sono 4 giornate lavorative, 26 ore sono 3 giornate, no? Quindi c'è una riduzione della durata. Nella speranza i dati sono abbastanza simili, e questo è sempre il confronto fra i 4 aggregati che abbiamo visto prima. Abbiamo anche un dato quantitativo, abbiamo stimato 760.000 ore totali di formazione fatte in Alto Adige, in totale in Italia sono 64 milioni di ore. Questa, scusate, è la differenza fra i corsi interni e i corsi esterni, laddove si vede che in Italia a livello in media prevale l'utilizzo di corsi interni, 60 contro il 40, 39, e invece a Bolzano è il contrario, prevarrebbero i corsi esterni. Questa è la situazione a livello europeo. Il quarto indicatore chiave è quello dei costi, anche il più difficile da rilevare, difficilissimo da rilevare, da anche da analizzare. E i due indicatori di base sono il costo totale per partecipante dei corsi, solo dei corsi, e il costo totale per ora, il costo orario, no, di formazione. Questi sono i dati. In Europa la media è di 1413, non si calcolano gli euro perché per favorire il confronto si trasforma la valuta euro a livello nazionale in questa valuta standard che sono i PPS, quindi 1413 PPS. In Italia i costi per partecipante sono più alti, 1492, in Alto Adige 1497. Mentre per ora di formazione in Europa 52, in Italia 58, Alto Adige 63. Quindi che cosa emerge da questi dati? Che se è vero che le imprese altoatesine hanno una maggiore propensione alla formazione rispetto alla media nazionale, però abbiamo visto che coinvolgono nei corsi una quota, diciamo, inferiore sempre in termini percentuali di addetti, e offrono anche loro un volume inferiore di ore, spendendo anche di più di conseguenza per questa formazione, in quanto poi il costo orario è anche più alto della media italiana. Quindi questa è la situazione di sintesi dell'Alto Adige. Questa è la distribuzione a livello europeo. Questo è un altro indicatore, sono i costi dei corsi in percentuale sui costi totali del lavoro. Devo fare una precisazione, si tratta di costi totali, quindi sono costi che in realtà comprendono al loro interno i costi diretti e i costi indiretti. La principale componente dei costi indiretti è la cosiddetta PAC, la Personal Absence Cost, sono i costi diciamo dell'assenza, diciamo il costo del lavoro per il fatto che il dipendente è andato in formazione, okay? Che è un dato molto importante, per l'Italia in genere è molto alto questo dato. Quindi in realtà poi dovremmo vedere i costi diretti, che sono quelli veri, la spesa per l'iscrizione al corso, la spesa per il formatore, le spese di viaggio, soggiorno, eccetera. E qui diciamo il dato per l'Alto Adige non ce l'abbiamo, il dato per l'Italia è di 482 PPS per lavoratore formato, quindi vedete c'è una certa differenza da 1400 a 480, insomma. Però come vedete, no, il tema dei costi, quando le imprese dicono sì, i costi non sono importanti, però in realtà poi loro hanno il problema del fatto che poi gli costa molto mandare informazione, perché il costo del lavoro, diciamo, è il costo per l'assenza del lavoratore, insomma, sono problemi che poi le imprese, se investono molto in formazione, si devono porre. E qui bisogna dire che rispetto al passato c'è stata una forte riduzione dei costi, che è dovuta probabilmente ad una maggiore efficienza del mercato della formazione, che vedremo più avanti. Questo è un dato, diciamo, di benchmark che mostra la posizione delle imprese del Trentino Alto Adige nel complesso. Qui c'è scritto Bolzano, no, questo è Bolzano, sì, la provincia di Bolzano, nel ranking proprio delle province italiane rispetto a questi quattro indicatori. Qui si vede che l'incidenza, appunto, il valore è molto alto, per la partecipazione tutto sommato anche abbastanza, l'intensità è un po' meno, i costi, diciamo, più o meno alti. Questi non sono però gli stessi dati, non sono dati CVTS, sono dati Union Camere, sono dati diversi che non abbiamo elaborato direttamente, quindi lo riporto così, diciamo, più che altro a titolo informativo. Vediamo i confronti temporali. Che cosa è successo dal 99 al 2005? E anche se sono date lontane, teniamo conto che sono importanti questi dati, perché sono i momenti in cui si può effettuare il confronto europeo. Quindi è importante conoscere questi dati e vedere l'evoluzione nel tempo. Qui vediamo che l'Italia era, diciamo, nel 99 aveva il 24% di incidenza. Era un dato molto basso, nell'Europa 15 allora era al terzultimo posto. Era, diciamo, la Grecia era all'ultimo posto, seguita dal Portogallo e poi l'Italia. Adesso il Portogallo è balzato, ha fatto un po' di salti, ecco, diciamo. L'Italia è cresciuta di 7-8 punti, però ancora, diciamo, è un valore chiaramente insufficiente. Quindi c'è un problema di fondo, c'è un problema di sottoinvestimento strutturale, cosa che altri paesi invece hanno risolto, o perché per differenze strutturali dei sistemi, come vedremo più avanti, dei sistemi di welfare e della configurazione dell'offerta proprio formativa in quei paesi, o diciamo perché le imprese investono molto, o perché c'è un forte sostegno da parte dello Stato. Questo è sempre un dato di confronto che mostra i valori, quindi la differenza com'era nel 99 la parte destra, come diventa nel 2005 la parte sinistra, e qui avanti vediamo nella sovrapposizione, quindi diciamo, abbiamo selezionato le imprese che i paesi laddove la media dell'incidenza formativa è superiore al 70%. Quello lì, il grafico in alto relativo al 2005, quello è sempre il 70, i paesi che formano per più del 70% il 99, e questo è il grafico che sovrappone le due situazioni, e quindi si può vedere che sostanzialmente sono simili, no? Sono sempre gli stessi paesi, quelli che contribuiscono maggiormente sono i paesi chiaramente del Nord Europa, no? Non scopriamo niente, però c'è qualche novità, diciamo, interessante che riguarda la Repubblica Ceca, anche la Slovenia, insomma. Però la situazione non, diciamo, non cambia proprio moltissimo. Questo è un grafico che mostra la performance delle imprese italiane sempre sui quattro indicatori chiave rispetto al benchmark europeo nel confronto fra il 99 e il 2005, ovvero sia come si posiziona l'Italia rispetto al paese che ha il miglior risultato, il paese guida, diciamo, il paese benchmark, in relazione ai quattro indicatori. Come si posizionava nel 99 è la linea tratteggiata, come si posiziona nel 2005 è la linea continua. Che cosa si vede? Si vede che la situazione è ancora, diciamo, molto ridotta, compressa, no? Però è migliorata. È migliorata perché? Perché si vede che l'indicatore dell'incidenza cresce tutto sommato. Quello della partecipazione della partecipazione cresce. Sulla durata c'è una riduzione, qui la situazione, e mentre invece sui costi si riduce molto. E guardate che nel 99 l'Italia occupava la posizione di benchmark, ma in termini negativi, perché era il paese dove le imprese spendevano di più per la formazione. Quindi qui c'è sicuramente un miglioramento. Vediamo le caratteristiche che assume la formazione. Quali sono le tipologie di formazione prevalenti? Si è detto che appunto a livello europeo sono molto diffuse le altre tipologie di formazione. Ora, noi sappiamo che anche in Italia sono diffuse, soprattutto nelle piccole imprese. C'è un problema di come le statistiche ufficiali riescono a rilevare la presenza di queste altre forme. E quindi vedete che questa indagine, che rileva però solamente le imprese con 10 addetti e oltre, mostra per l'Italia dei valori abbastanza bassi e comunque una prevalenza dei corsi rispetto alle altre tipologie, mentre in tutti gli altri paesi avviene più o meno il contrario. Questo è uno spaccato delle altre attività di formazione, e abbiamo il confronto fra l'Italia, la media nazionale e l'Alto Adige, dove si vede che in Alto Adige si fa tutto sommato molto training on the job, e si fa anche molto più apprendimento rispetto alla media nazionale, anche convegni, workshop e seminari. Quindi queste tre tipologie diverse dai corsi sono abbastanza diffuse in Alto Adige. Questo avviene soprattutto però nelle medie e nelle grandi imprese, avviene poco nelle piccole imprese per quanto riguarda il training on the job. Dunque questo è la situazione, la stessa situazione però riferita ai settori, e qui si vede che nei settori del manifatturiero, nei settori manifatturieri si fa molto chiaramente training on the job, ma se ne fa molto di più in media rispetto alla media nazionale, quindi in Alto Adige se ne fa molto nei settori manifatturieri. Questa è la diffusione della formazione continua, mette insieme una serie di indicatori che sono l'indicatore di base, è sempre quello che colora i paesi, è sempre l'incidenza, e mostra però anche la partecipazione e l'accesso, no? Quindi mostra complessivamente la diffusione della formazione continua, e qui chiaramente si vede che l'Italia ha un basso livello nell'incidenza e, come abbiamo visto, un livello un po' più alto per quanto riguarda la partecipazione e l'accesso, insomma, soprattutto l'accesso. Questo è il risultato di un'analisi che mostra l'esistenza di una forte correlazione e quindi fra questi due indicatori, l'incidenza e la partecipazione, mostra come si raggruppano i paesi, no? Possiamo vedere che in alto abbiamo la Repubblica Ceca, la Slovenia, la Svezia e la Francia soprattutto, che sono i paesi dove si fa più, dove sono più alti i due indicatori della partecipazione e dell'incidenza. I paesi, il secondo gruppo, il secondo cluster è quello in basso a destra, Finlandia, Danimarca, Regno Unito, sono i paesi sempre del nord Europa, ma c'è anche l'Austria, la Germania, insomma sono paesi dove è molto alto l'incidenza, un po' meno la partecipazione. Poi abbiamo un altro gruppetto, questo centrale, che sono paesi mediterranei, Spagna, Portogallo, anche Malta e Cipro, no? Qui ci aspetteremmo di trovare anche l'Italia, invece guardate l'Italia dove un po' defilata, no, per conto suo. Questo che vuol dire? Vuol dire che ha un livello di partecipazione che è vicino alla media europea, ma il fatto che ci sia quel basso livello di incidenza, no? Quello scalino, no? Del 30%, del 32%, blocca il paese e lo arretra rispetto alla posizione che gli sarebbe connaturata, quella dell'Europa mediterranea, mentre invece vediamo giù i paesi sostanzialmente dell'area balcanica, neocomunitari, Romania, Bulgaria, cioè, e altri paesi neocomunitari, oltre alla Grecia, che ha i valori più bassi. In un'analisi successiva, questa è una cluster analysis in componenti principali, vediamo che la situazione un po' migliora per l'Italia, abbiamo sempre i quattro gruppi, e qui l'Italia rientra perché abbiamo preso in considerazione non solo i due indicatori principali, ma tutta una serie di indicatori, compreso anche quello dei costi e degli investimenti. Questo è un dato interessante perché ci mostra che, sebbene è vero l'indicatore dell'incidenza è l'indicatore più importante, però noi dobbiamo anche valutare nel complesso la situazione di un paese, quindi nell'analisi comparata fra i paesi è bene anche realizzare queste analisi, e qui vediamo che bene o male con l'Italia complessivamente, no, anche se ha questo ritardo fortissimo che è di tipo strutturale chiaramente, tutto sommato nel complesso ha dei comportamenti che poi sono in linea con quelli degli altri paesi dell'Europa mediterranea. Qui si vede, questo è l'indicatore dell'incidenza sempre, per dimensione aziendale, nel confronto fra le tre rilevazioni, anno 93, anno 99, anno 2005. Che cosa si vede? Allora, qui abbiamo le imprese con 10-19 dipendenti, quelle con 20-29 e così via, e in alto la media generale. Nel 93 l'incidenza era il 15%, adesso quindi è raddoppiata in 15 anni. Si vede che la relazione fra l'incidenza e la dimensione d'impresa è determinante ed è sempre stato determinante. Noi lo sappiamo, questo vale un po' dappertutto, ma vale soprattutto per l'Italia. Comunque si vede anche che c'è stata un'evoluzione negli anni in tutte le classi dimensionali, è stata naturalmente molto ridotta nelle classi dimensionali più ampie, quelle delle grandi imprese, che naturalmente partivano da valori più alti e lì come dire, i valori erano, l'indicatore era più saturo, insomma. Qui in Alto Adige vediamo che anche in Alto Adige la propensione all'investimento in formazione è correlata chiaramente alla dimensione d'impresa, però il dato interessante viene fuori dai dati che è correlata in modo meno accentuato, perché le imprese con meno di 50 addetti che offrono formazione sono il 45%, mentre in Italia sono più o meno il 34-35%, quindi c'è un dato più alto anche fra le piccole imprese di incidenza formativa. Vediamo l'organizzazione. Ecco, questo è un dato molto interessante. Le imprese che hanno redatto un piano di formazione e le imprese che hanno previsto un budget dedicato alla formazione. Sono due informazioni che ci danno un dato, diciamo, della capacità organizzativa poi della formazione, soprattutto interna ma anche esterna, insomma. E c'è il confronto fra Italia e Alto Adige per classe dimensionale. Qui si vede che in generale in Alto Adige è meno diffusa la pratica di redigere un piano proprio scritto di formazione, ma è più diffusa la previsione del budget, quindi che è molto importante. Naturalmente è importante pianificare la formazione, ma è altrettanto importante poi prevedere un budget dall'inizio, no? Previsto di spesa per la formazione. Allora, adesso vediamo l'altro versante, quello delle indagini sugli individui. Che cosa ci mostrano queste indagini? Questa è un'indagine Eurostat AES, Adult Education Survey, un'indagine partita per la prima volta nel 96 e mostra i tassi di partecipazione all'educazione e alla formazione formale o non formale. Qui abbiamo il ranking che ci proviene dai risultati dell'indagine Adult Education Survey, AES, e il ranking delle LFS. L'LFS è la Labor Force Survey, è l'indagine sulle forze di lavoro, quella famosa indagine da cui proviene quel famoso indicatore del tasso di partecipazione al lifelong learning, quello ossia che viene utilizzato per misurare il raggiungimento verso il benchmark europeo del famoso 12,5%, no? Che venne stabilito a Lisbona, che si cita continuamente, che gli adulti dovrebbero partecipare, almeno il 12,5% in tutti i paesi dovrebbe partecipare, diciamo, ad attività di formazione. E in Italia è bassissimo, è l'ultima colonna, l'FS 2006 era il 6,1%, dovrebbe diventare il 12%, è molto difficile che si riesca a raggiungere questo obiettivo. Per AES è il 22,2%, sono due indagini diverse, quindi non deve spaventare la differenza, per motivi, diciamo, adesso non posso spiegare, diciamo, quali sono i motivi, la metodologia, le differenze metodologiche, però la cosa importante è che vedere la posizione dell'Italia, che tutto sommato è abbastanza simile. L'Italia è al 14° posto nell'indagine AES e all'11° posto nell'indagine LFS. E questa è la rappresentazione grafica relativa. Un dato importante è vedere come un po' in tutta Europa esistono differenze per quanto riguarda il divario di genere, tranne che in Italia. Avete visto? In Italia questo dato conferma il dato dell'indagine CVTS e anche quello della ISPO d'Inda con lavoratori. Mentre invece è molto forte il divario per età, cioè oltre i 55 anni effettivamente il tasso di partecipazione crolla e quindi sarebbe veramente importante, non che non sia importante investire nella partecipazione delle donne, per carità, è importantissimo, però forse è ancora più importante investire sugli over 50. Così come qui ci sarebbe, come dire, questo è un dato veramente allarmante, sul livello di educazione, il livello di istruzione. sui livelli bassi di istruzione, che poi possono leggere come livelli bassi, no, di qualificazione, livelli bassi di inquadramento. Qui abbiamo un divario fortissimo, un po' in tutta Europa, ma in Italia, come potete vedere, è molto molto forte. ISCED o ISCED 02 è il livello più basso, no? Sono la licenza elementare e la licenza della scuola dell'obbligo, e qui il valore è veramente molto molto basso, quindi questo dovrebbe far riflettere e impostare le politiche formative in questa direzione, no? Anche. Questi sono i risultati, vabbè, questo è uno spaccato dell'indagine ISFOL Indaco Lavoratori, che mostra la differenza fra i dipendenti privati, i lavoratori autonomi e i dipendenti pubblici. Il dato di fondo è i dipendenti pubblici ricevono tutto sommato un livello abbastanza soddisfacente di formazione, oltre il 52-53% dei dipendenti pubblici partecipa ad un'attività di formazione. Per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi questo dato è molto, molto più basso, è circa la metà, insomma. Qui faccio un richiamo ai principali modelli di offerta formativa in Europa, che ci può aiutare a capire un po' quelle differenze che abbiamo visto fra i cluster, i raggruppamenti, perché non si può, non tener conto del fatto che esistono diversi modelli di offerta formativa e di welfare, naturalmente. C'è il modello orientato al mercato, Regno Unito, Irlanda, il modello basato sul partenariato sociale e su forti relazioni corporative, che è un po' il modello tedesco, no? Tedesco-austriaco, forse anche il modello altoatesino. Poi c'è il modello neocorporativo, della Francia, Italia e Spagna, un modello mix basato sia sull'uno che sull'altro, sia sul partenariato sociale che sul mercato, che è proprio dei Paesi Bassi, e poi il modello, quello dei Paesi Scandinavi, orientato fortemente all'accesso, e un modello che possiamo definire in transizione, che è dei Paesi neocomunitari. Questo è, il modello nazionale, non mi soffermo, tranne per il fatto che per quanto riguarda la dotazione di risorse finanziarie, come saprete la legge 236 per il prossimo biennio è stata svuotata di risorse, per cui non si potrà più attivare quel canale di finanziamento, e questa è una cosa chiaramente molto dolorosa per quanto riguarda chi si occupa di formazione continua, del sostegno alla formazione continua, perché quelle risorse sono state destinate agli ammortizzatori sociali. E quindi la legge 236, che è la legge di fondo, no? Importante, insomma, più importante, e poi alla fine perde molta, molta sostanza. Va bene. Vediamo adesso velocemente qualche risultato con cui ci possiamo agganciare ai risultati mostrati da Werner. Questi sono i risultati di un'indagine che noi facemmo nel 2004, che riguardava un totale di 350 imprese, piccole e medie imprese nel Trentino Alto Adige, da cui veniva fuori che i motivi per cui queste piccole e medie imprese facevano formazione era soprattutto per arricchire il portafoglio di competenze dei propri lavoratori, ma anche poi perché vi era la necessità di rispettare la normativa, la legge S26 sulla sicurezza, questo prevalente soprattutto nelle piccole imprese, ma anche quello di favorire la produttività e la competitività. Un elemento importante che emergeva da quell'indagine e che emerge anche in CVTS è il legame fortissimo con l'innovazione. L'innovazione quindi è assolutamente da considerare un driver per la formazione anche in Alto Adige, ma non per le piccole imprese, perché le piccole imprese innovano in misura minore. Queste sono due elaborazioni che mostrano appunto la relazione tra formazione e innovazione, ossia sono quelle imprese che hanno fatto formazione e che hanno anche introdotto innovazioni. Qui non sappiamo se viene prima l'uno, il famoso problema, viene prima l'uno, l'uovo o la gallina, insomma. se è l'una che spinge l'altra o viceversa. Però lo sappiamo da, insomma, qui non lo sappiamo. In generale, diciamo, abbiamo fatto delle analisi, qualcosa possiamo dire. E qui viene fuori questo dato, appunto, delle, mi sembra, delle piccole imprese. Dunque, 31 e 34, 31 sì, è un dato abbastanza sì, però c'è un valore più basso per quanto riguarda le piccole imprese. E questo è un altro dato molto importante che si riaggancia un po' a quello che ha detto Bernd, relativo alla continuità di formazione. Queste sono imprese che hanno fatto formazione nel 2005 e che avevano fatto formazione anche l'anno precedente, quindi hanno fatto formazione per 2 anni di seguito. Quindi è un dato molto importante e un dato interessante è che sembrerebbe che questa continuità di investimento sia mediamente maggiore fra le imprese altoatesine rispetto alla media nazionale e anche nelle piccole imprese, no? Quindi mi sembra un dato interessante. Un'altra informazione sono i fattori che hanno condizionato la formazione. Questa è una domanda, quindi diciamo non sono i motivi per cui l'impresa non ha fatto formazione. Mi spiego, CVTS fa una domanda alle imprese che hanno fatto formazione e gli chiede, voi avete fatto formazione, ma quali sono stati i fattori che vi hanno ostacolato nel fare formazione per cui non avete fatto quanto volevate fare, quanto vi eravate previsti di fare? Un'altra domanda alle imprese che non hanno fatto formazione, gli si chiede quali sono state le barriere e gli ostacoli. Quindi anche questa è un po', diciamo, una domanda però è fatta solo sulle imprese formatrici. Qui, come si vede, i costi sembrano essere solo relativamente importanti, però noi ci fidiamo poco di questo dato. Soprattutto nelle imprese altoatesine sembrano meno importanti. E dunque, gli elevati carichi di lavoro e una ridotta disponibilità di tempo è un valore molto importante. Invece, in Alto Adige sembrerebbe che il motivo per cui le competenze sono già presenti in azienda, non il motivo classico, pare che sia molto meno importante rispetto alla media nazionale. Poi per il resto i dati sono abbastanza simili. C'è un valore un po' più alto per quanto riguarda l'inadeguatezza dell'offerta formativa, il fatto che non trovano quello che cercano, che abbiamo visto in alcuni settori è emerso dalla relazione di Werner. Per finire, ecco, qui vi volevo fare vedere questa strada. Quando vi ho detto prima, vedremo perché appunto non sembrano essere sensibili agli effetti della formazione e perché nella domanda sulla valutazione della formazione, cioè una domanda in cui si chiede ma voi avete valutato i risultati della formazione e come li avete valutati? Quindi avete misurato la soddisfazione dei partecipanti a fine corso, no? La classica cosa che si fa sempre, il questionario di fine corso. Questo tutto sommato sì, abbastanza, viene fuori un dato che è in linea con la media nazionale. Il secondo tipo di valutazione degli effetti è: avete valutato l'acquisizione di competenze? Cioè il fatto che il corso è stato utile perché ha migliorato la qualificazione del lavoratore e l'avete fatto attraverso test, insomma una modalità diciamo oggettiva, e qui sembrerebbe che i dati, che le imprese insomma siano meno, come dire, attente rispetto alla media nazionale. Altrettanto emerge dalla domanda successiva: avete valutato le prestazioni lavorative? Cioè le avete poi verificate? Avete verificato se queste prestazioni lavorative sono cambiate, sono migliorate? Anche qui i valori sono più bassi. E infine avete misurato gli effetti della formazione sulle performance economico-aziendali dell'impresa? E qui pure mi sembra un po' bassino. Quindi non so, forse c'è una mancanza di attenzione, insomma, però questi sono i dati. Poi volendo si possono anche approfondire meglio, naturalmente si possono fare ulteriori analisi e andarli a leggere insieme ai risultati della vostra indagine. Le conclusioni qui richiamo rapidamente quali sono gli elementi del dibattito. Qui purtroppo devo lamentare che in Italia, a differenza che in Germania, c'è poco dibattito, spesso ci si ferma agli indicatori, ecco, appunto, quante sono le imprese formatrici, quanti sono i lavoratori messi in formazione, e non si vanno a vedere la ricchezza di dati che proviene da queste indagini, che invece poi ci dicono anche molto di più. Però intanto il problema di fondo è perché in Italia poi si fa così poca formazione. L'argomento più popolare è quello del cosiddetto nanismo, secondo alcuni, insomma, cioè della dimensione ridotta delle imprese. E qui naturalmente abbiamo 4 milioni e 200 mila microimprese, una dimensione media secondo l'Istat, di Eurostat, questo 3,8 addetti, mentre la media nell'Europa a 15 sarebbe di 6,6 addetti, quindi la metà quasi. E quindi si dice questa bassa predisposizione a investire in formazione sarebbe un tratto distintivo e ineluttabile dell'assetto del sistema produttivo nazionale. Un altro argomento che viene richiamato è quello del limite delle statistiche ufficiali, no? Si dice sì, vabbè, però le imprese poi non è che non fanno formazione, qui c'è un'ampia letteratura Rullani, c'è una bellissima indagine anche di una ricerca di Delai, insomma, sulle piccole imprese in Emilia-Romagna. Si dice sì, ma c'è tanta, lo sappiamo, no? Chiaramente ce n'è tanta. Diffusione della conoscenza emerge anche dalla nostra indagine Indaco Imprese, questo. C'è molta conoscenza tacita nelle imprese di tipo anche familiare, eccetera. Però CVTS3, effettivamente, che è un'indagine che produce dati statistici ufficiali, effettivamente ci mostra, come abbiamo visto, un dato basso. Qui c'è questa bella interpretazione di Trupia che parla delle imprese familiari, no? Per cui ci sarebbe un genus logitalico per cui l'impresa familiare, c'è il titolare che sa tutto, fa tutto lui, e poi invece le competenze tecniche sono nel resto dell'organizzazione, tutti sono apprendisti, apprendono dal bisogno, però sempre sul terreno, sempre sull'emergenza, mentre invece, ecco, questo è forse il problema, no? Nel resto d'Europa non si interviene solo al momento dell'emergenza, del bisogno, ma si interviene in modo sistematico. Quindi è un problema culturale che produce a sua volta un problema di tipo strutturale. L'altro argomento è quello dei costi troppo alti, che è sicuramente un elemento importantissimo, soprattutto abbiamo avuto in questi ultimi anni, come abbiamo visto, una diminuzione dei costi diretti nelle PMI manifatturiere, che probabilmente c'è stato un fattore, come dire, di razionalizzazione poi anche dell'offerta formativa. È migliorata anche la relazione con i fornitori, e nella relazione make or buy è cresciuta, diciamo, la consapevolezza da parte dell'impresa di affrontare e risolvere all'interno il problema della pianificazione del bisogno formativo. Poi c'è questa, ahimè, l'elenco della vergogna, lo chiamo io, che qualcuno dice, vabbè, tu guardi il bicchiere mezzo vuoto, ma queste sono le graduatorie internazionali che ci mostrano che il problema non è un problema solo delle imprese formatrici, non è un problema solo della partecipazione al lifelong learning, ma è un problema di spesa in ricerca e sviluppo, crescita della produttività del lavoro, competitività, lo sappiamo, no? 14esimi in Europa, 40esimi nel mondo, l'innovazione tecnologica, le retribuzioni bassissime, no? Il 23esimo posto su 26 paesi. Questi sono un po' i problemi che connotano la fragilità del sistema paese e quindi le problematiche del sottoinvestimento che abbiamo visto prima. E per finire, il confronto con la provincia di Bolzano, volevo fare un riepilogo veloce. Dunque, che cosa viene fuori? In generale, soprattutto per quanto riguarda il primo indicatore, quello più importante, è una maggiore omogeneità fra le imprese, diciamo, altoatesine e quelle tedesche ed europee rispetto a quelle italiane, per quanto riguarda soprattutto il primo indicatore, mentre invece sugli altri indicatori, diciamo, nel complesso c'è una situazione tutto sommato abbastanza buona, ecco, ma ci sono degli ambiti su cui bisogna è necessario intervenire. E poi sì, diciamo che c'è questa ipotesi che poi si fa, no, di una vicinanza al mondo germanofono, insomma, quindi il fatto che si tenda diciamo a guardare oltre le Alpi, forse, non so. Quindi questo è il quadro complessivo che mostra tutto sommato come l'incidenza è più alta, ma gli altri indicatori o sono uguali o, diciamo, tutto sommato i costi, ecco, vediamo, i costi sono, il costo orario è più alto, si fa più training on the job, in generale si fanno più altre tipologie di formazione nelle PMI manifatturiere. Poi i piani formativi se ne fanno di meno, ma di più nel manifatturiero e nel credito. Budget se ne fa di più rispetto all'Italia, ma è interessante il dato delle PMI del manifatturiero. Innovazione è uguale alla media italiana. Se ne fa meno nelle PMI e più nel commercio. La continuità è un dato positivo. Fattori condizionanti, questo della carenza dell'offerta di formazione, e si fa poca valutazione. Ecco, io ho finito, vi ringrazio. Grazie. Per me è stato particolarmente interessante sia il confronto con i paesi che sono, diciamo, i leader per quanto riguarda la formazione, dove sappiamo che abbiamo ancora da percorrere un bel po' di strada per arrivare a dei limiti, a dei livelli, diciamo, accettabili, ma d'altra parte anche il confronto con altri paesi che ci circondano, che sono paesi che sono entrati o stanno per entrare nell'Unione Europea, dove infatti abbiamo visto che in tema di formazione si stanno dando da fare parecchio. Moltissimo. E quindi dobbiamo anche tener conto che siamo in concorrenza anche con questi, cioè i nostri artigiani potranno essere in futuro in concorrenza anche con questi qua, quindi se questi sviluppano di più certe competenze, allora poi magari faremo fatica a stare sul nostro mercato addirittura se gli altri sono più bravi, ma l'intenzione nostra invece dovrebbe essere quella di attivarci, di cercare di sfruttare al meglio quello che abbiamo già di buoni sviluppi per riuscire a entrare noi in altri mercati e lì vendere i nostri prodotti invece. Certo. Bene, a questo punto abbiamo ancora ufficialmente un quarto d'ora circa per la discussione. Non so se possiamo anche andare più in là, però un po' di discussione c'è stata anche prima. Io adesso apro il dibattito generale, faccio di nuovo il giro poi a raccogliere i vostri commenti. Come? Sì, anche qua per poter fare più giri vi chiedo gentilmente di stare dentro nei 3 minuti, grazie. Allora, desidero ringraziare il dottor Angotti per la brillante, lucida e scorrevole esposizione e faccio la domanda subito. Perché il livello di formazione è più elevato nel settore pubblico? Beh, la spiegazione che ci siamo dati, ma che è confortata anche dai dati del rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione che è pubblicato ogni anno dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, laddove emergono gli stessi dati, noi li abbiamo confrontati, e perché effettivamente c'è una maggiore predisposizione del settore pubblico ad organizzare formazione per i propri dipendenti, ma c'è anche un motivo, come dire, anche di ordine finanziario, che riguarda il fatto che c'è una organizzazione della contribuzione che è molto più alta per il datore pubblico. Cioè, mentre ad esempio i fondi interprofessionali non possono usufruire solamente del famoso 0,30, che credo tutti voi sappiate, no, come funziona, questa stessa quota per il settore pubblico è molto molto più ampia, e quindi quella è sicuramente una spiegazione. Hanno più risorse, riescono ad usufruirne in modo più, anche più semplice, anche se poi l'organizzazione, come sappiamo, poi nella pubblica amministrazione è molto più difficile, no? Più, e gli esiti non sono affatto scontati. Chiaramente nel settore privato magari la formazione è erogata in modo più efficiente, nella pubblica amministrazione magari non si sta ancora, diciamo, molto attenti alle modalità di erogazione, ecco. Bene, qualcun altro che vuole intervenire? Franco Russo. Dunque, io ero curioso un attimo di sapere se è possibile approfondire il discorso della cultura dell'apprendimento, perché abbiamo visto che ci sono tutta una serie di motivi e fattori che determinano la propensione all'aggiornamento, che sono i motivi concreti, oggettivi, che possono essere interni ed esterni. Però poi appunto vediamo che oltre a questo esiste, diciamo, un altro livello, no? Che determina la propensione all'apprendimento e la tensione di un'azienda all'aggiornamento, che è quello appunto del fattore culturale, di quanto all'interno di questa azienda vi sia una cultura della capitalizzazione, della valorizzazione del sapere e della conoscenza. Di qui poi probabilmente tutta una serie di modelli organizzativi aziendali volti appunto a valorizzare la formazione stessa. È chiaro che in una struttura aziendale come la nostra, appunto, dove sappiamo appunto che il nostro tessuto economico è costituito da micro aziende, spesso la cultura diciamo dell'impresa corrisponde con la cultura dell'imprenditore. Di qui appunto mi ha destato particolare interesse questo dato che ha dato, questa relazione che sembra esserci anche tra la propensione all'apprendimento e il grado di istruzione della persona. Questo era riferito più al frequentante che all'imprenditore, immagino, però in ogni caso mi interesserebbe sapere se ci sono, sono stati rilevati in modo oggettivo dei fattori che determinano questa propensione anche rispetto poi all'imprenditore stesso. Un'altra domanda collegata era quella relativa alla relazione tra formazione e innovazione, che lei ha un po' lasciato lì in sospeso, sarei contento se potesse approfondirla un po'. Allora, dunque, rispetto al primo punto, se esistono dati su questo, sì, perché nella indagine Indaco Lavoratori che facciamo all'ISFOL, noi rileviamo la partecipazione formativa e quindi i comportamenti formativi anche su un campione di lavoratori autonomi indipendenti, che è segmentato in questo modo: titolari di impresa, titolari di piccole imprese sostanzialmente, quindi imprenditori, e poi lavoratori in proprio, cioè commercianti e artigiani, soci di cooperativa e coadiuvanti. E quello che emerge, diciamo, intanto noi siamo credo gli unici in Italia che abbiano fatto perché diciamo abbiamo posto un'attenzione su questi aspetti, perché il nostro ex dirigente Franco Frigo, che adesso molti voi conoscono, è andato in pensione recentemente, lui aveva un'attenzione molto molto molto molto forte alle piccole imprese. Lui diceva sempre: noi dobbiamo essere quelli che analizzano le piccolissime imprese, le micro imprese, insomma, e andare a vedere poi i comportamenti poi di questi titolari. Il dato che emerge a livello di dato oggettivo è che effettivamente il livello di istruzione è basso, non solo diciamo per cioè il problema del basso livello di istruzione non è solo proprio dei dipendenti, ma anche dei titolari, perché noi sappiamo come sono, no, le storie, diciamo, imprenditoriali della piccola impresa, insomma, come nasce l'imprenditore in Italia. Quindi c'è un problema che è sicuramente quello di far crescere il livello proprio di competenze anche dei datori di lavoro, e lì è molto importante naturalmente la formazione manageriale, quindi elevare, far aumentare la quantità e la qualità della formazione manageriale. Un altro aspetto importante rispetto alle, dunque, a questo aspetto, no, direi che è tutto. E poi c'era l'aspetto invece dell'innovazione. Ah no, ecco, il fatto appunto che i lavoratori autonomi, ecco, la cosa importante nelle piccole imprese, come abbiamo verificato, come anche Kaplinger l'ha messo in evidenza, è che, diciamo, l'aspetto importante è far capire alla piccola impresa che è importante fare formazione, non perché dobbiamo raggiungere un obiettivo che ci dà l'Unione Europea, ma perché gli conviene a lui innanzitutto, ne avrebbe un guadagno non immediato, sarà chiaramente un beneficio differito, no? Come sappiamo nel tempo, ma il guadagno ce l'ha anche la piccola impresa, anche il piccolo imprenditore, insomma. Quindi si tratta di convincere, quindi di agire anche a livello culturale, oltre che attraverso la leva del finanziamento pubblico, a livello culturale di far capire l'importanza di aumentare la diffusione della conoscenza e delle competenze all'interno dell'impresa, e far diventare quel 32% di imprese formatrici, farlo diventare velocemente il 40%, il 50%, quello è l'obiettivo che ci dobbiamo dare, convincere le piccole imprese. Lì i fondi interprofessionali hanno, io direi, una missione, soprattutto fondi come Fondo Artigianale, quelli, diciamo, più rivolti alle piccole e medie imprese, che devono spingere soprattutto molto, no, loro su questo. E poi il discorso invece, fra l'altro, un altro elemento importante che mi diceva una responsabile del Ministero del Lavoro della Romania recentemente, a un convegno che molte imprese italiane lì hanno portato la formazione, quindi diciamo che il fattore delocalizzazione gioca anche in parte un suo ruolo, anche nel fatto che si trasferisce l'organizzazione produttiva in un altro contesto. Mi scusi, posso interrompere un attimo? Che ci sono persone che poi devono andare via. Do un'ultima occasione a Tila Meyer di intervenire. È importante quello che lei ha detto adesso, che bisogna fare, lavorare moltissimo su convincere la piccola e media impresa sull'importanza della formazione. In una visione di questo genere, lei può convenire con me su un'analisi di questo genere? Cioè che uno degli elementi che sono tuttora un grandissimo ostacolo, oltre ai fattori, diciamo così, emersi anche dalla sua presentazione, tra l'altro molto, molto, come dire, articolata e molto interessante, è che mancano i presupposti a monte. Cioè noi abbiamo un impianto sistemico relativamente alla formazione professionale, alla formazione, diciamo così, continua, datato. Cioè le leggi istitutive, non so, la legge 300 mi viene in mente, è datata 40 anni fa. Certo. È pensata per sistemi grandi, imprese grandi, fabbriche grandi, con tanti lavoratori e lavoratrici lì sul posto, con condizioni quindi di accessibilità di un certo tipo. I contratti, poi i singoli contratti per i singoli comparti, hanno mutuato impostazioni della legge, anche queste ormai datate, perché, voglio dire, nei contratti non sono assolutamente date condizioni per la piccola e media impresa e per i dipendenti di una piccola e media impresa di avere, per esempio, accesso attraverso i diritti sindacali, come quelli che valgono tuttora per le grandi realtà. Questo è un problema. Cioè io credo che bisogna, come dire, riguardare a tutto il sistema che ruota intorno alla formazione professionale in particolar modo, con una rinnovata attenzione, ma anche con una rinnovata come dire, voglia anche di crederci da parte di tutti gli attori. E qui il sindacato ce lo metto tutto, le parti datoriali ce lo metto tutta, ce li metto tutto. L'altro aspetto è, faceva riferimento ai fondi interprofessionali, non aiuta in questo momento, non c'è settore, non c'è settore che io conosca che non abbia il suo fondo nazionale, che non abbia i suoi strumenti bilaterali, che non abbia le sue trattenute o i suoi contributi da parte datoriale e dipendente. Cioè ognuno si è fatto il suo orticello e rischia di essere un sistema che implode, perché guarda solo addentro. Nel momento in cui io chiedo contributi, diciamo così, come lo faccio per la formazione quasi dappertutto, devo rendere conto di questi contributi, per cui faccio formazione e non mi metto in un circuito sinergico utile, perché potrei fare accedere a formazione in maniera trasversale, molto più magari produttiva alla fine. L'ultimo elemento poi che mi sembra come dire degno di nota e che merita anche, come dire, una rinnovata attenzione, anche critica, e le strutture attrezzate per la formazione, strutture accreditate piuttosto che le professionalità, diciamo così, perché la piccola e media impresa non ha al proprio interno le competenze necessarie per cui deve rivolgersi al mercato esterno. Il mercato esterno è diventato una cosa, cioè si fanno pacchetti di formazione pronto all'uso, non si guarda la specificità dell'impresa, il fabbisogno vero, quindi formazione mirata, misurarla, valutarla, correggerla. Cioè, mi pare che siamo diventati un po', a vario titolo, i vari soggetti che a vario titolo interagiscono sul versante della formazione, dei burocrati nella gestione di una partita in cui tutti parlano bene, ma in tantissimi razzoliamo malissimo. Quello dico anche in una logica di autocritica, sì. Tutta interna, come dire, al sindacato, che perde clamorosamente opportunità di assumere un ruolo a partire dagli enti bilaterali. Mi scusi se sono stata lunga. No, ma io devo dire, sì, chiaramente sono abbastanza d'accordo con lei. E io poi non è che posso, diciamo, esprimere giudizi, valutazioni, perché molta materia è proprio della bilateralità, no? Quindi noi auspicavamo a suo tempo, si ricorda, la fondazione, no, per la formazione sul modello spagnolo, invece sono usciti fuori tutti questi fondi interprofessionali. E chiaramente diciamo non ne trae un vantaggio poi il sistema, no? Perché un sistema che è già complesso, multiforme, anche con una normativa molto diversa, con diverse linee di finanziamento, con un sistema che è sempre in divenire, sempre che ha necessità di riforme, di integrazione, no? Adesso bisogna fare questi accordi che vengono fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale, bisogna fare gli accordi territoriali, ne sono stati fatti ancora solo 6, e di questi 6 mi sembra che solo 1 o 2 sono operativi. Insomma, quindi ci sono delle difficoltà enormi, e qui è importantissimo il ruolo della bilateralità, ma anche della singola impresa, che deve governare assolutamente il suo rapporto con i fornitori. Deve diventare protagonista nell'identificazione dei propri fabbisogni e nella erogazione dell'offerta. Deve fare proprio l'offerta per trasformare il pacchetto in il corso che mi serve, o la consulenza che poi mi serve veramente. Ecco, ci sono altri interventi? No, non ne vedo. Lei aveva ancora da dare delle risposte qua al dottor Russo di prima, che l'aveva interrotta. Il tema del rapporto fra innovazione e formazione è un tema molto intrigante, che devo dire è anche molto, molto complesso. E noi, diciamo, l'abbiamo affrontato ripetutamente. Quello che sappiamo è che la relazione c'è ed è forte, molto molto forte, E il problema, uno dei problemi per cui non si fa abbastanza formazione in Italia è dovuto al fatto che l'Italia è un paese a basso contenuto, ahimè, tecnologico, cioè non nel complesso, però diciamo anche nelle statistiche, no? Di Eurostat, le statistiche sull'innovazione, no? L'indagine, come si chiama, l'indagine CIS, no? La Community Innovation Survey, anche lì i dati sono gli stessi, cioè il 34% delle imprese fa innovazione. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che quelle imprese che hanno capito che bisogna innovare, bisogna diffondere la conoscenza all'interno, fare formazione, sono sempre quelle. È un blocco di imprese, come dire, virtuose, non è che sono sempre le stesse, però diciamo che sarà un 40-45% di imprese che saltuariamente, occasionalmente o in modo continuativo fanno l'uno e fanno l'altro, okay? Fanno anche ricerche, cercano di, no, fare collaborazioni, spin-off con l'università, eccetera. Quindi, però ecco, sono ancora poche. Questo è dovuto al fatto che sono piccole, al fatto che la formazione e l'innovazione costa, al fatto, a tutta una serie di fattori, fra cui anche gli elementi strutturali, la struttura normativa, la difficoltà di accesso al credito, tanti problemi che magari in altri paesi sono meno importanti, da noi ce l'abbiamo tutti, per cui non è che, insomma, non si fa formazione per colpa delle imprese, non si fa formazione per tanti motivi, insomma. Bene, allora a questo punto possiamo concludere. Credo che sia stata un'esperienza molto interessante e ricca per tutti. Abbiamo visto tantissimi punti che sono stati discussi a partire dagli interventi strutturali. Io qui mi auguro che a livello nazionale si possa arrivare ad una definizione delle figure professionali. Io mi auguro che si punti non soltanto sul privato e su una qualche iniziativa, diciamo, non organizzata anche delle parti sociali, ma che anche dal punto di vista del pubblico si vada a creare e a fornire più strutture. Noi in parte in Alto Adige abbiamo la formazione professionale già bene organizzata, però nel resto del territorio mi sa che su questo versante c'è ancora molto da fare. Credo che sia una tematica importante anche per il sindacato, e noi l'abbiamo studiata appositamente, perché in futuro la formazione, l'accesso alla formazione deve essere e immagino sarà un tema della contrattazione, e credo anche, vista, diciamo, la varietà degli argomenti e delle cose da fare, che ci voglia anche un po' una regia, e questo in qualche modo è una cosa che io riporterei di nuovo nella sfera del pubblico come, diciamo, attore che in qualche modo riesce a portare ad un tavolo, diciamo, i vari attori sociali, perché qua ovviamente ciascuno adesso che esce, oltre ad andare al buffet che abbiamo preparato, ma poi andrà a fare le cose che aveva già fatto prima, e invece quello che bisogna fare è anche cercare di fertilizzare questa rete che noi qua abbiamo visto nella prima occasione di tante persone che si sono parlate, che hanno raccolto informazioni, ma bisogna creare, diciamo, un'altra sequenza di occasioni di dibattito, ma forse oltre alle occasioni di dibattito anche di creare, diciamo, le premesse per fare delle cose insieme, fare sinergia, e quindi dare, diciamo, anche al sistema Alto Adige dal punto di vista della formazione una spinta veramente forte, in modo che riesca ad farsi apprezzare a livello, diciamo, non solo locale ma anche interregionale e anche a livello più internazionale. Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare ovviamente ai relatori, e vi invito tutti al buffet che adesso non so se è preparato qua nei paraggi. Ah, ok, allora sì, devono salire le scale, di sopra c'è un buffet per tutti. Questa è un'occasione magari per qualche ulteriore discussione, diciamo, a lattere. Vi ringrazio tantissimo.